Il Capodanno Berlusconi lo anticipa e dice no ad elezioni. Una 500 frena una Ferrari, rissa sul raccordo anulare a Roma e due manette. Buongiorno dalla redazione, da Laura Bettini. Cominciamo quindi dalla notizia degli ultimi minuti. Sono stati eseguiti alcuni arresti dalla polizia e dai carabinieri in relazione allo scoppio davanti alla sede della Lega Nord di Gemonio, vicino alla casa del leader del Carroccio, Umberto Bossi. Gli arrestati apparterrebbero all'area anarchica, per ora non si hanno altri dettagli che saranno forniti invece in una conferenza stampa nel pomeriggio. Tutto pronto al Quirinale per il discorso di fine anno che Giorgio Napolitano leggerà stasera alle 20:30. Lo trasmetteremo anche noi su Radio 24. Parlerà agli italiani usando un linguaggio semplice e incisivo. La sera di Capodanno il messaggio del Presidente della Repubblica potrebbe toccare il tema della crisi economica, esortando tutti a credere davvero che possiamo farcela ad uscire. Possiamo farcela a trovare la via delle riforme indispensabili per il Paese, per valorizzare le potenzialità e garantire la piena funzionalità delle istituzioni. Toccherà temi, ideali di coesione e coraggio e si rivolgerà ai giovani e alle loro famiglie. Incoraggerà Napolitano chi sta vivendo mesi difficili, le imprese, i giovani che faticano a trovare lavoro. Parlerà agli studenti che non contestano solo una legge ma una mancanza di attenzione e di ascolto. E a tutti l'invito a ritrovare nelle celebrazioni del 150° dell'Unità d'Italia le ragioni profonde. Queste alcune previsioni che vengono fatte dai più esperti quirinalisti, perché in realtà del quinto discorso radiotelevisivo di fine anno di Giorgio Napolitano nulla trapela. Il presidente, dicono, lo sta scrivendo da giorni ed è geloso custode dei suoi appunti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto questa mattina è intervenuto Berlusconi ribadendo il no ad elezioni anticipate. Il premier ha parlato in diretta al TG5. Ce la possiamo fare, soprattutto se sapremo mettere da parte le polemiche inutili e riusciremo così a realizzare quelle riforme che sono necessarie per il nostro futuro. Crediamo che l'Italia abbia bisogno di tutto fuorché di elezioni anticipate, elezioni che ci esporrebbero a rischi imprevedibili. Sul fronte politico c'è attesa anche per la decisione del presidente brasiliano Lula sulla estradizione di Cesare Battisti. È attesa a breve, ma in ogni caso la decisione sul caso Battisti che il presidente brasiliano Lula comunicherà all'Italia non sarà di sicuro l'ultima puntata di questa querela giudiziaria politica e diplomatica. Da poco infatti è iniziato l'incontro tra Lula e l'avvocato generale dello Stato Adams, quindi il presidente brasiliano dovrebbe telefonare a Napolitano, a Berlusconi, per informarli della sua scelta ormai quasi sicura di dire no all'estradizione. Secondo la stampa brasiliana, tuttavia, Battisti non lascerà subito il carcere di Papuda Brasilia, perché spetta al presidente del Tribunale Supremo Federale, Cesar Peluso, revocare eventualmente il carcere. Tra Lula e il Tribunale di fatto è in corso uno scontro sotterraneo, in quanto il massimo organo giudiziario brasiliano ha già fatto sapere che Battisti non ha diritto al rifugio politico. Gli argomenti portati da Lula a favore dell'asilo saranno ascoltati, ma in ogni caso la decisione non arriverà prima di febbraio. Nabor Buliosh, che rappresenta l'Italia nella causa, ha annunciato che presenterà un nuovo appello. Intanto, dalla mezzanotte di oggi entrerà in carica la nuova presidente Dilma Rousseff, il cui orientamento sulla vicenda è apparso diverso da quello di Lula. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Marchionne, uomo dell'anno, così titola questa mattina Il Sole 24 Ore. La scelta ce la spiega Mauro Meazza, caporedattore centrale. Nella rosa dei candidati al protagonista economico del 2010, il nome di Sergio Marchionne si è imposto d'autorità. Eppure non mancavano i concorrenti, a cominciare da Sua Santità Benedetto XVI, che è autore di questa enciclica Caritas in Veritate, densa di riferimenti a economia e finanza. E c'erano da tenere in considerazione naturalmente il lavoro e il merito del ministro dell'Economia, con il suo sforzo di tenere l'Italia al riparo dalle speculazioni, la vigilanza del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, l'impegno della presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, e ugualmente ci sembravano meritevoli di segnalazione anche il neopresidente dell'ABI Giuseppe Mussari e per l'impegno nella lotta alla criminalità Ivan Lobello e Antonello Montante. Infine meritavano una segnalazione anche la neosegretaria CGIL Susanna Camusso, il ricercatore Bruno Murari e la stessa PMI, che abbiamo voluto prendere un po' come simbolo, la piccola e media impresa italiana che non smette permette di cercare la ripresa. Eppure, dicevo, il nome di Marchionne si è imposto perché l'energia, la visione, le scelte anche drammatiche che sono state portate avanti da Marchionne, scelte anche contestate, hanno messo tutti quanti, i politici, i sindacalisti, gli economisti, davanti alla realtà della globalizzazione. Nel mondo globale, nell'economia globale, o si produce come il mondo produce, oppure si dice addio, o si potrebbe davvero dire addio all'industria. Argomenti più leggeri: nelle grandi città si prepara un capodanno all'insegna della festa e della musica. Quella sua maglietta fina. Da Roma a Firenze, da Napoli a Venezia saranno in molti a brindare al 2011 all'insegna della buona musica. La capitale festeggia con Claudio Baglioni. L'appuntamento è ai Fori Imperiali, 3 ore di concerto con i suoi brani più famosi. Antonello Venditti regalerà invece ai suoi fan uno show all'Auditorium Parco della Musica, mentre Renzo Arbore sarà al Gran Teatro di Roma. A Siena, in Piazza del Campo, si alterneranno sul palco Paolo Belli, René Grandi e Giusy Ferreri. Firenze ospiterà Elio e le Storie Tese in Piazza della Stazione, mentre Enrico Ruggeri augurerà buon anno da Mantova in Piazza Erbe. A Napoli un altro dei protagonisti di X Factor, Marco Mengoni, che salirà sul palco in Piazza del Plebiscito, mentre in Piazza Mercato si esibirà James Senese. Biagio Antonacci sarà di scena in Piazza Mendola a Salerno, mentre a Benevento in Piazza Castello ci saranno i Baustelle e la banda Bardot. Festeggiamenti poi a Venezia in Piazza San Marco, dove l'evento principale sarà l'AV 2011, che culminerà con un bacio collettivo davanti alla Basilica. Fuori dal coro Milano e Torino, che quest'anno rinunciano al Capodanno in piazza, così come Palermo, che ha scelto la solidarietà. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È corsa contro il tempo intanto per assicurare una Napoli pulita, così da scongiurare i roghi per i botti di Capodanno ed esalazioni di diossina. I cumuli di rifiuti ancora in strada verranno innaffiati, ma le autorità ribadiscono l'appello a non sparare fuochi e petardi. Il presidente della provincia di Napoli, Luigi Cesaro, al microfono di Maria Luisa Pezzali. L'appello soprattutto a non sparare fuochi. Facciamo usare solo stellina ai bambini, soprattutto per la loro gioia, soprattutto la responsabilità civica da parte di tutti in un momento particolarmente difficile per Napoli. A Napoli città restano più o meno 300 tonnellate di rifiuti ancora credo da raccogliere. Qualcosa in meno, credo che nella giornata di oggi Napoli sarà pulita. Ecco, in provincia invece la situazione qual è? Ci vuole ancora qualche giorno, ancora 4-5 giorni. Poi il dopo quale sarà? Il dopo lo stiamo affrontando con i tecnici, poi abbiamo un tavolo importante il giorno 4 a Roma con il nostro presidente Letta. Le previsioni dicono che per questa primavera Chiaiano, la discarica di Chiaiano sarà satura. Prima di questa data cercheremo di trovare un nuovo invaso, stiamo cercando di mettere a punto soprattutto questa strategia. Punteremo molto sugli impianti intermedi. Gli impianti di compostaggio che purtroppo da 20 anni la regione Campania non si è mai dotata. Se guardiamo invece alle previsioni del tempo per il fine settimana, sarà bello ma di nuovo molto freddo. Proprio il gelo quest'anno sta rendendo la vita impossibile a migliaia di senza tetto. Alle 13.30 in Italia in Controluce il reportage di Paola Nania. Dormire per strada a meno 4 gradi, il freddo penetra nelle ossa, i piedi e le mani diventano insensibili. Se si ha la tempra forte si resiste battendo i denti. Nei peggiori dei casi, quelli che fanno notizia, si muore. È successo 2 volte a Milano negli ultimi 15 giorni, poi a Torino e a Varese. Morti gelide e silenziose. Per capire cosa voglia dire essere invisibili e dormire su un marciapiede con 2 o 3 coperti addosso, abbiamo scelto Milano e seguito per una notte i City Angels, il gruppo di volontari che da 16 anni nel capoluogo lombardo porta cibo, scarpe e vestiti ai crociati. Tutti gli altri sono... Siamo davanti alla sede dei City Angels, sono le 9 di sera, tra poco partiremo per il giro nel centro della città e in altre zone calde, tra virgolette, di Milano per aiutare i senza tetto, le persone che vivono per strada. Oggi la temperatura tocca più o meno i meno 3 gradi. Il gruppo è formato da 6 persone, ognuna di loro usa una specie di nome di battaglia. A farci da guida per tutta la notte c'è Charlie. Allora, Rocky... Okay. Condor che è il nostro capo. Allora Rocky, Condor, okay. Condor che è il capo squadra, sì. Onda, Luna che è ausiliaria per ora, per ora. Eterea che hai conosciuto Eteria. Prima, io sono Charlie. E io sarò Dani stasera. Dani. Prima prima tappa attonale dietro la stazione centrale nel magazzino dell'associazione che vive di donazioni spontanee. Adesso scendiamo e portiamo le cose che abbiamo buttato qui sul... Bisogna raccogliere più materiale possibile. Con il freddo sempre più rigido servono coperte, tante coperte, e giubbotti pesanti, maglioni, pantaloni e scarpe. Notizia appena battuta dalle agenzie, purtroppo niente affatto lieta. Un militare italiano sarebbe morto in Afghanistan, così almeno riferisce l'ANSA, riferendo fonti parlamentari. Non ci sono altre precisazioni, quindi ovviamente torneremo ad aggiornarvi nel corso del GR, se possibile, o nella prossima edizione. A bordo di una Fiat 600 aveva sfidato una Ferrari impedendole il sorpasso. Sarebbe questo il motivo di un inseguimento notturno avvenuto sul grande raccordo anulare di Roma, finito poi con una aggressione. Speronato e inseguito dal ferrarista, il conducente della Fiat è stato picchiato sulla corsia d'emergenza. L'uomo a bordo della Rossa e l'amico che erano con lui sono poi stati arrestati. Firenze si unisce alla lista dei comuni che scelgono di fare ricorso ai privati per mantenere il welfare locale. Che si tratti di pensiline degli autobus a Napoli, di banchi di scuola in Puglia o di camion dell'immondizia a Palermo, sembra essere sempre più uno strumento per far quadrare i bilanci questo. Stefania Saccardi, assessore alle politiche sociosanitarie all'ambiente del comune di Firenze, al microfono di Michele Albini. Per adesso stiamo lavorando su alcune ipotesi di servizi che apparentemente sembrano irrilevanti, ma che diventano invece importanti in relazione ad alcuni tipi di disabilità, per esempio, o in relazione all'animazione per gli anziani, oppure all'accoglienza delle persone che vivono per strada. Abbiamo pensato, per esempio, di chiedere ad un'azienda che si occupa di piscine di sponsorizzare un corso di riabilitazione per disabili, abbiamo chiesto ad un'altra grande azienda di Firenze di occuparsi delle scene dell'accoglienza invernale. Noi chiediamo di sponsorizzare progetti che già ci sono, che già il Comune sta erogando, magari implementandoli, magari migliorandoli, ma comunque di restare nell'ambito della rete dei servizi che il Comune offre. Andiamo al calcio, manca solo l'ufficializzazione, ma ormai la storia tra Ronaldinho e il Milan è al passo d'addio. Buonasera a tutti, grazie mille, forza Milan! Ronaldinho! Sogno di una notte dell'estate milanese. Era il 17 luglio 2008. Ronaldinho sbarcava da Barcellona a San Siro per il tripudio del popolo rossonero. Storia di un amore incompiuto, quello tra Digno e il diavolo, eccezion fatta per qualche colpo da maestro e la zuccata con cui firmò la vittoria nel suo derby d'esordio. Poi tante pause, incomprensioni, nottate, quelle sì da fuori classe a suonar bonghi, tra la diffidenza di Ancelotti e la fiducia di Leonardo. Il feeling con Allegri, invece, a inizio stagione è durato lo spazio di un pomeriggio, quando a fianco dell'ex pallone d'oro scese in campo persino lui, il presidentissimo in persona. Io considero Ronaldinho il più grande giocatore di tutti i tempi. Ogni volta che Ronaldinho va in campo, il biglietto vale i soldi che è stato pagato. Chissà ora cosa ne penseranno i tifosi del gremio, pronti, salvo sorprese, a riabbracciare il loro gauscio, che torna in patria per coronare l'ultimo sogno, una maglia verde oro per i mondiali brasiliani del 2014. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima di chiudere, un aggiornamento sulla notizia che vi abbiamo dato poco fa. Un militare italiano sarebbe stato ucciso in Afghanistan, a quanto pare da un cecchino. È avvenuto un paio di ore fa nel distretto di Gulistan, nell'ovest del paese. Non ci sono altre informazioni, vi terremo informati. Prossimo GR24 alle 14. Questo GR invece è stato curato da Daniele Biacchessi e Anna Migliorati, condotto da Laura Bettini, in regia Paolo Corleoni. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.